Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Io sono Marta. Ciao a tutti, io sono Fabio, buongiorno e bentrovati. Allora, oggi volevamo parlarvi di racket e usura, perché martedì c'è stata la presentazione del dossier Emilia, un terremoto di nome 'Ndrangheta in regione, di cui uno dei temi era il racket e l'usura, e poi abbiamo assistito mercoledì a un interessante incontro con Don Marcello Cozzi, che è il vicepresidente di Libera e il presidente di una fondazione che si chiama Interesse Umano, che si occupa appunto di racket e usura, Fabio Faina di Banca Etica e Giacomo dello Sportello SS Giustizia. Innanzitutto, cos'è racket e usura? Cosa sono? Ecco Marta, se te non dispiace mi lancerei nella definizione, poi lascerei agli ascoltatori un'etimologia del termine pizzo, che è l'altro modo in cui si parla di racket. Allora, anzitutto diamo due definizioni così capiamo subito di cosa parliamo. Usura consiste nel concedere prestiti a tassi di interesse superiori al cosiddetto tasso soglia, ossia nelle leggi vengono previste dei tassi limiti in cui non si può salire oltre a quelli. L'altra definizione è quella di racket, che è detto più volgarmente, diciamo, pizzo. Dopo vi dirò anche perché questa definizione si concretizza, cito, nella richiesta ad un operatore economico del pagamento periodico di una certa somma di denaro in cambio della, parliamo di mafie, quindi della protezione da parte dell'organizzazione criminale. Ecco, è curioso, io non sono siciliano, quindi gli ascoltatori siciliani mi perdoneranno la pronuncia, è curioso l'origine, l'etimologia della parola pizzo, perché in siciliano si parla di upizzo, che significa il becco. Un antico detto recitava bagnare un pizzo, ossia far bagnare il becco. Cosa vuol dire come metafora? Dare da bere ad una persona da cui poi si sarebbe ricevuto un piacere in segno di ringraziamento. Ecco, questo diciamo nel tempo è divenuta in una versione un po' meno graziosa, un po' più sgraziata, nel chiedere il vero e proprio pizzo, insomma. Perché parliamo di pizza Bologna? Perché il pizzo c'è anche al nord. Ricordiamo che si usa per motivi diversi. Se nel sud la mafia usa il pizzo soprattutto per controllare il territorio, al nord viene usato per infiltrarsi ed infettare l'economia. L'usura invece viene usata perché hanno bisogno di riciclare il denaro. La crisi ha aiutato questa diffusione di racket e usura, soprattutto dell'usura, perché anche gli usurai che non erano legati alle mafie si sono ritrovati in corto di liquidi. E invece, come ben sappiamo, la mafia non ha problemi da questo punto di vista, e quindi c'è stato questo bellissimo sodalizio fra mafia e usurai che c'è tuttora, e quindi qua spesso gli usurai sono legati alla mafia. Vorremmo anche farvi osservare che se al sud sono i mafiosi che di solito vanno in giro a chiedere il pizzo o a prestare i soldi, al nord non succede questo. Al nord diciamo che è più che altro una mafia imprenditrice, è una mafia che investe ancora di nuovo i propri guadagni. Se al sud li fa, se al sud o anche comunque, cioè non dimentichiamoci che comunque abbiamo Perugia, che è un grandissimo centro nevralgico per lo spaccio e per il dispaccio di droghe, e quindi così è a salire nell'Italia. Quindi i guadagni si fanno in tutta Italia, ma in particolare nel nord si reinvestono in aziende che poi dopo possono infiltrarsi e lavorare ancora meglio e continuare quell'opera di distruzione dell'economia sana, dell'economia buona, che porta anche avanti lo stesso racket e la stessa usura. Quindi sì, le mafie non hanno problemi di liquidità, anzi cercano di inventarsi tutti i modi possibili per investirli. Usura, mi viene subito spontaneo parlare di azzardo, di gioco d'azzardo. In effetti nelle grandi bische clandestine, insomma, gli usurai sono lì pronti a prestare denaro a tutte quelle persone che hanno bisogno, che magari hanno giocato quel poco denaro che, avevano, che portavano con sé nella speranza di vincere qualche cos'altro contro ogni qualsiasi probabilità, e si sono trovati dunque a chiedere perché hanno bisogno, perché non dimentichiamoci che l'azzardo genera una malattia patologica, il cosiddetto GAP, e quindi chiedono, gli usurai sono pronti a elargire denaro con degli tassi di interesse mostruosi proprio perché c'è la necessità immediata di avere denaro da parte del giocatore, che continua nell'azzardo e nel riciclo, cioè riescono a fare qualsiasi cosa senza darsi problemi. Questa infatti è una delle conseguenze peggiori del gioco d'azzardo, ma come si può affrontare questo problema quando capita? Quando uno si trova in questa situazione, cos'è che può fare? Di questo ne parliamo dopo e vi presenteremo quindi lo sportello SS Giustizia. Ma prima vi lasciamo qualche minuto di pausa con Red Wine Mistakes and Mythology di Jack Johnson. Everybody's made a play, that's what they used to say. Till Drew stepped on a song, now everything there was big and small, just little crying robots. Program me, I wanna win the race, I wanna find a place where the king locked up the princess. Jump the fence, drink a little bit. Red wine mistakes of says, oh me, oh my, oh why, his name always changing. I've been through some strange days. What's the matter? Is the feast not fat enough? Up the ladder with your feet, reaching with your hands. You can feel it and dream it. I know you wanna believe it. Just steal it. Take a piece of the sun, drink some red wine, mistakes of across the hero's face, he falls from grace until the little birds say that the truth is never ending. We're just here pretending. Let's all laugh so that we don't cry. Let's all lift the glasses up to the sky for some red wine mistakes of apology. Thank you. Bentornati cari ascoltatori, eccoci qua. Stiamo parlando di racket e usura, quindi queste sono le tematiche di questa puntata, tematiche particolarmente care, specialmente dopo il dossier di Emilia, un terremoto chiamato 'Ndrangheta. Quindi c'è bisogno di parlare di qualcosa di concreto che si possa fare per chi è soggetto a usura e racket. Quindi parliamo della sportella di SS Giustizia, che è nato a Bologna 2 anni fa, il 21 marzo compie esattamente 2 anni, ed è quello che in pratica si può fare quando ci si trova in questa situazione spiacevole di essere vittime o possibili vittime di racket e usura, perché appunto loro si occupano di sostegno e aiuto alle vittime, dell'accompagnamento ai familiari nella burocrazia amministrativa, che è sempre pesante e complessa, quella italiana soprattutto, e accompagnano queste persone nel percorso fino alla denuncia. Ok, per ogni eventualità vi lasciamo i contatti dello sportello SS Giustizia, che si trova in via Lodovico Berti 2/4 nel quartiere Porto di Bologna. È aperto il martedì dalle 10 alle 17. Potete mandare una mail a sportellolegalitabologna@libera.it, tutto attaccato, tutto minuscolo, e il numero di telefono è 051 52 58 58. Ricordiamo che per racket e usura c'è comunque un fondo nazionale stanziato per chi volesse, chi denuncia ha diritto a delle sovvenzioni e degli aiuti. Giusto per fare una parentesi, la apro e la chiudo velocemente, la banca etica è una banca il cui, sempre citando l'incontro di martedì, il cui membro Fabio Faina ha detto una cosa molto bella, ossia che il credito è il diritto di tutti, cioè se si ha bisogno di credito non c'è la necessità di rivolgersi a usurai per avere credito. Esistono banche, in particolare Banca Etica, che concede credito più che sulla sicurezza, sulla base della fiducia, di un'analisi sociale, non dell'affidabilità economica. Ecco, questo è importante e cerca di evitare la richiesta di usurai. Bene, credo sia arrivato il momento di lanciare la seconda canzone. Dopo ci troveremo con la presentazione degli eventi, i 100 passi in vista della 20ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia, che sarà il 21 marzo e quest'anno sarà proprio a Bologna, ma ve ne parleremo dopo. Adesso Burning the Whitest Boy Alive. Cari ascoltatori, ben trovati. Ma adesso, come annunciato, facciamo un piccolo programma, un piccolo elenco di quello che sarà il programma dei 100 passi che ci condurranno alla 20ª giornata della memoria e dell'impegno. Ma il primo lo faccio dire a Marta, perché so che gli piace particolarmente. Allora, io comincerei con un evento che c'è oggi, tra poche ore, alle 6:30, la presentazione del libro 100 passi verso un'altra Italia, che parla dei 20 anni di Libera, perché quest'anno sono 20 anni appunto che è nata l'associazione Libera, dove interverrà Gabriella Stramaccioni. Ma aspetta Marta, io mi riferivo al ristorante, sulla cosa che ti piaceva, è importantissimo questo evento. Chiaramente, chiaramente il mio evento preferito è il ristorante 100 passi, che verrà allestito in piazza 20 settembre ed è aperto dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19 alle 22:30 da oggi fino al 21 marzo. E si mangeranno? I prodotti di Libera Terra, e noi faremo i camerieri, quindi una combinazione veramente superlativa. Ecco, venite soprattutto per i prodotti che per i camerieri, insomma, no. Ecco, abbiamo detto quello di questa sera, delle 18:30 con la Stramaccioni. Io allora aggiungo anche un altro incontro, quello di martedì 17 marzo, sempre alle 18:30, allo stesso luogo, con Nando Dalla Chiesa, la scelta di Libera. Nando Dalla Chiesa è presidente onorario di Libera, sociologo, professore universitario e di certo, come sempre, non deluderà l'auditorio. Sembra molto interessante ascoltarlo, però forse dovremmo identificarlo, questo fantomatico luogo, che è la libreria 20 Liberi, che è una libreria allestita apposta da oggi in Piazza Maggiore a Bologna. Aperta dalle 10 alle 23, perché è una libreria appunto per dove si possono trovare questi documenti molto importanti, anche con dei dossier. Un altro appuntamento importante, direi, quello con Tizian. Esatto, giovedì 19 marzo alle 18:30 c'è Tizian che presenta Il clan degli invisibili, il suo ultimo libro. A proposito di Tizian, ricordiamo le udienze del processo Black Monkey, Tizia Black Monkey. Perché? Perché Tizian è il giornalista per l'Espresso che ha denunciato in una delle sue inchieste, diciamo, gli affari illeciti delle mafie con slot e videolottery, minacciato dall''Ndrangheta, e in questo processo Black Monkey vede coinvolti da una parte Giovanni Tiziano come testimone e dall'altra parte Nicola Femia come grande boss sotto accusa. Le date sono il 1 aprile e il 17 aprile, le prime due, dalle 9:30 alle 11 in via Farini 1. Per tutti gli altri eventi rimaniamo alla rubrica 100 passi, che si terrà su Radio Città Fujiko alle 15:10 da lunedì della prossima settimana fino al 21 marzo. Infatti da lunedì comincia la settimana dell'antimafia su Radio Città Fujiko, con un sacco di rubriche o interventi o puntate su temi di mafia e antimafia, la cui prima che vi segnaliamo è l'intervista a Enrico Fontana lunedì alle 8:30. Cari ascoltatori, bene, adesso rinnovo l'invito a questa stessa trasmissione, a Lucciole nelle Tenebre, della prossima settimana, del 20 marzo, il giorno prima della manifestazione del 21 marzo. Ne sottolineiamo ancora una volta l'importanza e parleremo in quell'occasione di più della stessa giornata. Spiegheremo nel dettaglio che cosa sia la giornata del 21 marzo e cos'è per noi presidio universitario di Libera, cosa simboleggia quella giornata. Ci salutiamo con la canzone Senza Impegno della banda Bardò. Vi diamo un caro saluto, dato che suonano questa sera qui a Bologna. Ciao a tutti da Fabio. Ciao da Marta, a venerdì. Senza impegno, senza impegno, senza impegno, senza impegno. Sono degno di avere un regno, una croce di legno o anche un muro, un sotto al cielo. Se non mi impegno, ci passo accanto all'Eldorado, all'incanto. Ma per pigrizia, per sfiducia, per un ricordo che ancora brucia. Mani avanti, poche certezze ti do. Mani avanti, poche promesse ti farò. Se ti farò senza te, senza te. Se non mi impegno, non avrò tutto, resterò solo all'asciutto. In nessun modo e nessun gioco avrò un posto attorno al fuoco. Di pane in frasca, le mani in tasca, fischietto vago e cambio sentiero.